attaccarci qualsiasi cosa, con l'alimentatore. Problemi, tu non preoccuparti. prima di dici, noi ci andiamo prima, tanto io sono sempre a Baracchino. Noi ci andiamo prima, ci andiamo all'appuntamento, ci vediamo direttamente lì e poi io vengo e prendo il lineare, già lo sai dove abito, quindi te l'avevo già detto un'altra volta. Adesso non serve a nulla, se ne fa tutto e nulla.